L'Austria è un luogo fantastico da visitare. La capitale, Vienna, vanta edifici incantevoli e torte davvero gustose. Innsbruck e Salisburgo sono città con meravigliose montagne all'intorno. I turisti amano vedere i mondi di cristallo Swarovski, in Tirolo.